Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 17. Unum scio nihil scire. Nella vasta area desertica il sito militare era costellato di crateri anneriti. Cataste di rottami fumanti esalavano acri miasmi in tutta la zona circostante. Fra la sabbia, le rocce, i portelli dei silos utilizzati come rampe di lancio sotterranee giacevano carcasse di carri armati, componenti di armi rese inservibili con l'uso di esplosivo, cumuli di metallo contorto e annerito di cui non si riusciva più a individuare la forma originaria. Drago si aggirava baldanzoso fra i tetri resti, accompagnato dal generale in capo che camminava rispettosamente un passo dietro al dio. «E dimmi, caro, ognuna di queste testate ha una potenza di...» chiese l'altissimo senza voltarsi. «Mio signore, ogni testata ha una potenza di 270 chilotoni. Sono state costruite come risposta strategica ad un eventuale attacco nemico. Ne abbiamo anche di più potenti, ma sono state messe in sicurezza nei silos sotterranei, poiché una potenza eccessiva non sempre è un bene. Non avrebbe senso aggiudicarsi un territorio totalmente devastato e inabitabile.» «Totalmente devastato, sì, bene. Allora, hai capito? Le politiche d'ingaggio sono cambiate. Voglio che mi siano consegnati tutti i dispositivi di guida e voglio che studiate un sistema per centralizzare il comando di lancio. Ci vorrà un po' di tempo, ma so che voi militari avete talento per queste cose.» «Sarà fatto, mio signore.» «Un'altra cosa. Dovrete comunicare esclusivamente con me. Voglio una linea diretta dal Vaticano al centro di comando. La parola d'ordine sarà Stranamore. Quando comunicherò con voi mi identificherò così. Se non sentirete la parola d'ordine, la linea dovrà restare muta. È chiaro?» «Chiaro, mio signore.» «Bene. Vedo che avete fatto un buon lavoro. Le armi convenzionali sono state tutte distrutte.» Drago si girò di scatto e guardò di sottecchi il generale. «Sicuro che non vi siete imboscati neanche una pallottolina in qualche cassetto, neanche una piccolina?» Il militare, abbassando gli occhi, avvampò. «Mio signore, non potremmo mai. I suoi ordini erano espliciti. Nessuno oserebbe disobbedire.» Drago tacque trattenendo fra i denti una risata. Quasi gli faceva tenerezza quell'omone corpulento con la divisa grondante mostrine e medaglie che gli parlava come uno scolaretto accusato a torto di marinare la scuola. Lo faceva sentire meglio sapere che, nella peggiore delle ipotesi, aveva in mano la possibilità di fare cessare definitivamente le sofferenze della razza umana. Guardò Lowker parcheggiato sulla pista di atterraggio lì vicino che lo aspettava. Fece un accenno di saluto militare al generale che scattò sull'attenti rispondendo al saluto. Dopodiché, senza aggiungere altro, si avviò verso l'aereo. Da qualche tempo sua regina si aggirava per la città. Dopo il terzo avvento aveva avvertito, urgente e irresistibile, il bisogno di recarsi in pellegrinaggio nei luoghi sacri della rivelazione. In particolare, amava trascorrere la maggior parte del tempo sulla collina, in preghiera. Quel giorno era inginocchiata nel punto esatto dove poche settimane prima era sorta la tenda del Dio. Era giunta fin lì sospinta dalla fede e dal presentimento che la sua vocazione le avrebbe offerto un'illuminazione divina. Sussurrava tra sé parole di lode al senza nome, immersa nel mistero della rivelazione e grata del mondo nuovo che si era dischiuso davanti a lei la benedetta sera in cui udì la voce del Dio e i suoi occhi per la prima volta videro davvero. Il vento faceva ondeggiare l'erba, onde di fili verdi che dialogavano in una danza cosmica con le lontane onde azzurre del mare sotto la collina. Sua regina sentiva che quel momento era perfetto, che tutto era come doveva essere, come in cielo, così in terra. Con la coda dell'occhio vide una chiazza rossa fra il fogliame degli alberi poco lontano. Si muoveva nella sua direzione. Per un attimo le sembrò fiammeggiare al bagliore di un lampo lontano. Le sue labbra si dischiusero in un sorriso e gli occhi corsero verso quel rosso come se avessero avuto zampe di lepre per trottare veloci. La chiazza si muoveva dietro le foglie che a tratti la oscuravano. Quando la vegetazione si fece più rada, Suor Regina per un istante restò delusa. Solo una ragazza, che si era arrampicata sulla collina invece di percorrere la comoda strada su cui era arrivata lei a piedi. La chiazza rossa non era altro che la capigliatura di una giovane vestita alla moda, alti stivali beige e calzamaglia grigia. Poi però vide qualcosa che la stupì. La ragazza si stava guardando intorno con aria indecisa e infine si inginocchiò lì dov'era. Non aveva dato neanche un'occhiata nella sua direzione e sua regina poté continuare a osservarla indisturbata. Senza dubbio la ragazza stava pregando. Un possente tuono scosse il cielo sopra di loro. Nella mente della suora riecheggiò come un fulmine un pensiero e in un lampo capì cosa voleva il senza nome da lei. Seduto sul muretto del porto, il pescatore pescava senza troppo successo, ma con molta convinzione. Non c'era scritto da nessuna parte che lo scopo del pescare fosse prendere pesci, e lui adorava starsene lì solitario ad ascoltare il rassicurante suono della risacca. Lo distraeva da quei pensieri che ultimamente non gli davano tregua. La canna dondolava lievemente fra le sue mani. Nonostante il sole stesse sparendo lentamente dietro le nubi, malgrado il vento che si stava alzando e i tuoni lontani, gli sembrava una giornata perfetta per la sua attività preferita. Stava staccando dalla tesa del cappello da pescatore un amo per lanciare una seconda lenza, quando lo colse un brivido. Due pallide ombre dietro di lui bloccarono i deboli raggi di sole lasciandolo all'ombra. Si voltò e riconobbe in controluce la magra sagoma di Diossido, oltre a un altro tipo con berretto e occhialoni scuri che se ne stava lì un po' impacciato. «Ciao, ragazzo, è un po' che non ti vedevo!» «Oh, ciao, Diossido, come ti butta?» Camillo esitò e si strinse nelle spalle. «E a te?» Il pescatore tornò a guardare la lenza che si rifrangeva entrando in acqua. Era affascinante quel piccolo cambiamento di percezione. Avrebbe voluto saperne di più. «Da un po' di tempo mi sembra di non sapere più un cazzo. Voglio dire che noto cose a cui prima non facevo caso. E la cosa mi fa incazzare. Primo, perché ho passato tutta la mia vita non vedendo davvero quello che guardavo. E secondo, perché mi rendo conto che ci sono un sacco di cose che non capisco e che faccio fatica a capire. E questo mi fa incazzare ancora di più.» Diossido scoppiò a ridere. Un discorso così era tipico del pescatore. Le sue uscite filosofiche sembravano covargli nel cervello per lungo tempo, fino a manifestarsi improvvisamente nei momenti meno aspettati. Era l'aspetto che lo rendeva un amico con cui il tempo passava sempre piacevolmente. «Beh, io penso che tutte le persone intelligenti siano un po' così, persino noi. Solo i cretini credono di sapere tutto.» «Sì, Diossido, ma vedi, guarda quelle bolle di schiuma sulla superficie dell'acqua. Guarda i fulmini laggiù. Guarda come il vento increspa le onde, lo vedi? Sono tutte cose così scontate che non ci facciamo caso. Ma quante forze si muovono dietro di loro per produrre quegli effetti?» Il pescatore continuava a fissare l'acqua mentre parlava. «E a noi? Quali sono le forze che ci muovono? Conosciamo solo gli aspetti più superficiali. Arriviamo a malapena a comprendere di cosa è fatta la materia. Tu lo sai, questa roba l'hai studiata. Non conosciamo davvero l'essenza della realtà. Sappiamo solo alcune delle regole del poker universale, ma non riusciamo a sederci al tavolo da gioco perché non conosciamo tutte le mosse possibili. Cazzo, non riusciamo neanche a seguire la partita!» Diossido era perplesso. Il pescatore non era mai arrivato così in là nei suoi ragionamenti. Guardò Mirko, era immobile sotto il cappellino. Inarcò un sopracciglio da sotto gli occhiali e non diede altri segni di vita. Diossido si rivolse nuovamente al pescatore. «Ti va una birretta? Ce la facciamo?» Ma le sue parole caddero nel vuoto. «Dico davvero, sai, non sappiamo un cazzo e invece ci sentiamo sicuri delle nostre certezze raccattate qua e là. Non so per quanto tempo potrò sopportare tutto questo. Beati pesci che non sanno davvero un cazzo!» Diossido non riusciva a capire. Sembrava il pescatore. Aveva il suo viso, i suoi occhi, la sua voce, era vestito come lui. Perfino l'inconfondibile cappellino con gli ami attaccati lungo la falda era il suo, ma non parlava come lui. Quegli apocalittici toni cupi non erano i suoi. Il discorso aveva preso una piega inquietante troppo velocemente. Non riusciva a capire il senso logico di quel monologo. Non sapeva come replicare. «Non fraintendermi, Diossido, io sono felice, però so che potrei essere più felice e non sarò davvero felice fino a quando non ne saprò di più. Il problema è che sono inadeguato, sono limitato, non riuscirò mai a essere veramente felice in questa vita se non riuscirò a vedere oltre il velo. Ci pensavo da un po' di tempo, ma parlare con te mi ha chiarito le idee». Siete arrivati proprio al momento giusto, tu e il tuo buffo amico. È un magnifico giorno per morire e rinascere. Mirko ebbe un improvviso presentimento e allungò la mano verso di lui, ma il pescatore si era già lasciato cadere nell'acqua. Ci fu un secondo di silenzio, poi il tonfo sollevò alcuni spruzzi che il vento fece subito volare via e iniziò a piovere. Diossido, ancora confuso dal discorso, non riusciva a credere ai suoi occhi. Mirko in un lampo si tolse gli occhiali e si tuffò nel punto dove era sprofondato il pescatore. Per fortuna l'amico non era andato troppo a fondo e Mirko ne intravide la sagoma scura poco sotto di lui. Grazie all'allenamento di numerose estati e interminabili giornate passate a nuotare in mare, fece una graziata capriola su se stesso e protendendo un braccio afferrò il lembo della camicia del pescatore. Lentamente si lasciò risalire a galla, trasportando il suo amico con sé. Quando riemerse, vide Diossido che aveva disceso la scaletta delle barche che portava al livello dell'acqua e cercava di afferrarlo. Sorresse la testa del pescatore e in due bracciate si avvicinò alla scaletta. Diossido lo tirò su e lo distese sul cemento. Il pescatore giaceva sotto la pioggia, tra alghe putrefatte, gusci vuoti di cozze e vongole. Alcuni rimasugli d'interiora di pesce gli lambivano una mano. Mirko risalì e lo osservò. Era dello stesso colore del cemento. Né lui né Camillo sapevano cosa fare. Le uniche nozioni di pronto soccorso che avevano venivano dai film e non era la stessa cosa ora che lì c'era un amico. Poi il corpo del pescatore ebbe un sussulto e dalla sua bocca iniziò a gorgogliare acqua come da una fontanella. I colpi di tosse lo fecero voltare su un fianco. Finì così di rigettare il liquido ingurgitato che andò a fare compagnia alle cozze e alle budella di pesce. Tutto si era svolto senza una parola dopo i discorsi assurdi del pescatore. Diossido fu il primo a parlare. «Ma che cazzo?» Il pescatore aprì lentamente gli occhi e si bloccò come fulminato. «Il Dio del cielo è sceso sulla terra per salvarmi dalle acque!» Mirko se ne rese conto troppo tardi. «Oh, merda!» mormorò tentando di nascondersi dietro Diossido, ma ormai i bulbi oculari del pescatore gli si erano agganciati come un mirino elettronico militare. Era successo tutto in una manciata di minuti. Suor Regina era rimasta ad osservare la ragazza in preghiera che se ne stava inginocchiata, incurante delle prime gocce di pioggia che avevano iniziato a cadere. Anche quando l'intensità della pioggia aumentò, la ragazza rimase totalmente assorta nella sua preghiera, qualunque essa fosse. Sua regina invece si alzò per mettersi al riparo. L'età le aveva insegnato che il corpo non sempre è robusto come l'anima, e anche se in cuor suo rimaneva una giovinetta, aveva comunque imparato a prendersi cura del suo involucro mortale. I capelli rossi della giovane si erano disfatti sotto la pioggia, appiccicandosi alla testa e perdendo il loro bagliore fulvo, ma facendo risaltare ora sulla pelle pallida la forma sensuale e piena delle labbra scarlatte. In piedi, sotto una grande quercia, la suora studiava il volto della giovane. Le ricordava la sua giovinezza, quando era innamorata del trascendente. Era il tempo in cui i miracoli avvenivano ogni giorno, a ogni ora, bastava saperli riconoscere. Quell'ardore visto nella giovane era la garanzia che la sua ispirazione era corretta. Lo scroscio d'acqua andava esaurendosi. Sua regina uscì dal suo riparo, si avvicinò alla ragazza e si inginocchiò accanto a lei. Aveva gli occhi chiusi e sembrava non essersi accorta di nulla fin dal momento in cui si era inginocchiata, né della pioggia né dell'anziana suora che ora si trovava al suo fianco. Le sue labbra si muovevano impercettibilmente senza emettere alcun suono. Per quanto sua regina si sforzasse, poteva udire solo un lieve e inintellegibile bisbiglio. Rimase in silenzio, unendosi mentalmente alla preghiera, conscia che entrambe si rivolgevano allo stesso essere superiore. La sua mente volò in meravigliose cattedrali piene di pace e serenità senza tempo, finché una voce parlò. «Sorella, sei tutta bagnata!» Con un sussulto si ridestò dal suo rapimento. Le ci volle un attimo per rendersi conto che la ragazza dai capelli rossi le aveva parlato. Aveva ricominciato a piovere e non se n'era accorta, ma ora il sole aveva ripreso a illuminare gli squarci nelle nubi. I capelli della ragazza erano accesi di bagliori di fuoco. «Chi sei?» chiese sua regina. La ragazza la guardò confusa. «Io non so... Una volta mi chiamavano Anna, ero Anna, ma ora io sono una senza nome», concluse in tono deciso. Sua regina non aspettava altro, quella era la conferma della volontà del Dio. Esclamò con gioia: «Allora io e te ci uniremo nella preghiera e glorificazione del senza nome». Anna sorrise, levando lo sguardo verso la luce del sole che ormai penetrava fiotti tra i cumuli nuvolosi in dissolvimento. «È quello che stavo cercando». Il Marra era quasi l'ultima speranza per Mirko e Diossido. Quel corvaccio dispettoso era quanto di più selvatico, primitivo e refrattario a qualsiasi condizionamento conoscessero. Non sapevano bene come, ma si auguravano che non fosse stato cotto dall'effetto God. Per un attimo avevano anche pensato di fare un salto al manicomio cittadino lì vicino per vedere se i pazzi fossero stati colpiti dal Devil, ma Diossido aveva orrore di quei posti e rifiutò categoricamente. Decisero di portarsi dietro il pescatore per la paura che riprovasse ad ammazzarsi appena se ne fossero andati. Del resto non dava alcun fastidio. Si limitava a ripetere continuamente che il Dio del cielo era sceso sulla terra e lo aveva salvato dalle acque. Lo caricarono, ancora bagnato fradicio, sul sedile posteriore della Mercedes e iniziarono la ricerca del Marra. Era arduo seguire le sue tracce. La sua costituzione mentale gli impediva di rimanere solo per più di qualche minuto. Per lui la solitudine era come camminare a piedi nudi sull'infinita sabbia rovente di un deserto. Così dovettero affidarsi alla fortuna e iniziare a girare tutti i posti che frequentavano abitualmente. «L'ultima volta che l'ho visto è stata quando avete fatto quel casino sulla collina, ma l'ho perso di vista quasi subito», disse Diossido. «Chissà con chi sarà, a chi si sarà appiccicato». Percorsero lentamente la strada che costeggiava il mare. Un tempo quella strada sarebbe stata piena di fighetti, radunati in gruppetti per fare sfoggio di scarpe, cellulari, automobili o altro, cercando di accaparrarsi la fighetta di turno. Un tempo ci sarebbero state orde di borghesucci con la pancetta di fuori e l'obbligatoria catena d'oro sulla camicia aperta, indaffarati a discutere su quanto fosse giusto fottere lo Stato, evitando ed evadendo. Quel giorno invece erano tutti scomparsi, o forse erano sempre loro, ma le cose che facevano non erano le loro. C'era una discutibile scultura in ferro davanti all'ingresso di uno stabilimento balneare, una di quelle cose che faceva il paio con le case modello scatola da scarpe in centro e che sollevava non pochi interrogativi sul gusto di chi arredava la città. Evidentemente anche lì il senso estetico di qualcuno si era solennemente ribellato. Diverse persone, anziane e non, lavoravano sulla scultura rimossa dalla sua sede ed adagiata a terra. Il bagliore azzurrino di un saldatore a fiamma trapelava tra i corpi chini dei lavoratori. Dei ragazzi in lontananza giocavano a basket. «Il campetto!» esclamò Diossido. Il Marra, infatti, ogni qualvolta si sentiva particolarmente stressato o annoiato, andava al campetto da basket sulla spiaggia per lunghe, sudate partite con chiunque trovasse lì. Mirko non voleva altri contrattempi. «No, c'è troppa gente, io ti aspetto in macchina». «Ok, lui resta con te, però», disse Diossido indicando il pescatore che con faccia beata guardava il tettuccio beige della Mercedes e sorrideva al rivestimento vellutato. Ancora una volta Mirko sentì la mancanza di uno stereo in quel cazzo di macchina. Tamburellò con le dita sul volante, mormorando impaziente una melodia indecifrabile e tenendo d'occhio dallo specchietto retrovisore il suo adoratore. Iniziava ad avere mal di testa, la tensione di quei giorni cominciava a pesare. Sperò che Drago lo chiamasse presto per chiedergli di raggiungerlo in qualche bel posto e iniziò a fantasticare su dove gli sarebbe piaciuto andare. Si stava appisolando quando Diossido aprì la portiera ed entrò in macchina, destandolo di soprassalto. «Sono tutti fuori di testa totale. Si aiutano a vicenda a segnare». «A segnare, non capisco». «Appena una squadra è in vantaggio, si sente in obbligo di aiutare gli avversari a pareggiare. Segnano per loro. Possono andare avanti per giornate senza che nessuno vinca o perda. Avete rovinato anche il basket, brutti stronzi». «Ma il Marra è lì?» domandò Mirko. «Il Marra è il più fanatico. Vorrebbe dare un pallone ad ogni giocatore. Stava cercando di convincere gli altri che così la partita sarebbe più equa. Era così preso che non mi ha neanche visto». Mirko sbuffò fra i denti. «Merda, che palle!» Diossido non poté trattenere una risata. «Allora, ti piace il mondo matto che avete creato?» «Era matto già da prima», replicò Mirko. «Già, questo è vero. Però il ciccio qui dietro non si sarebbe mai ammazzato prima, ma almeno credo», disse Diossido indicando il pescatore. «Sicuramente non si sarebbe mai ammazzato perché pensava di non essere abbastanza intelligente», ammise Mirko. «Doveva essere felice. Doveva e non poteva. Sbaglio o era uno dei vostri comandamenti?» Diossido scosse la testa e continuò. «Guardalo adesso, totalmente flippato. Prima almeno aveva una parvenza di normalità. Adesso sembra essere appena uscito dal nido del cuculo. A suo modo, adesso è felice». «Oh yes, felice come il nero è felice», disse Diossido. Mirko non seppe cosa replicare. Mise in moto la Mercedes e partì.